America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da Washington, anzi dall'ufficio ovale, Mario Platero. Ecco, vi faccio ascoltare qual era l'atmosfera nell'ufficio ovale quando Gentiloni e Trump si sono incontrati. Ovviamente il rumore delle macchine fotografiche, il mormorio di sottofondo e anche il presidente del Consiglio Gentiloni che dice: beh, l'aspettiamo in Sicilia, poi una stretta di mano. Insomma, un'atmosfera molto calda. Devo dire, essere alla Casa Bianca è sempre una grande esperienza, entrare nell'ufficio ovale dove è passata la storia di una buona parte del mondo moderno, dà sempre un certo, come si dice, frissange, insomma una certa emozione. Ecco, questa era l'atmosfera nell'ufficio ovale, ma mentre si incontravano e mentre parlavano i due leader, beh, all'improvviso c'è stato l'attacco a Parigi, ed è su questo che i due leader, devo dire, hanno espresso parole di cordoglio, entrambi, solidarietà nei confronti del popolo francese per quello che è successo. Beh, e occorre anche una riflessione, perché parlavamo di Europa e di elezioni francesi proprio ieri, se ne è parlato durante l'incontro fra Trump e Gentiloni. Ebbene, un attentato che capita appena a due giorni dalle elezioni francesi non vuole che fomentare il terrore e spingere all'ascesa dei populisti, dei nazionalisti. Ma è proprio su questo che Trump ha fatto notizia. Ha chiarito che bisogna che l'Europa unita prevalga, ed è questa secondo me la notizia più importante uscita dall'incontro di ieri con Gentiloni. Sentiamo Trump. Yes, a strong Europe is very, very important to me as President of the United States, and it's also important for the United States. We want to see it, we will help it be strong. Ecco, Trump dice: un'Europa forte è molto importante per me personalmente come presidente degli Stati Uniti, ma è anche molto importante per l'America, e aiuteremo l'Europa ad essere forte. Anche Gentiloni, devo dire, ha parlato dell'importanza dell'Europa per gli Stati Uniti d'America, lo ha fatto ieri mattina durante un incontro al Center for Strategic and International Studies, ma sentiamo cosa ha detto il nostro presidente del Consiglio subito dopo Donald Trump. Abbiamo avuto un incontro molto fruttuoso che riflette un'antica amicizia, come ha ricordato con le sue parole il presidente Trump. Questa amicizia si fonda sull'impegno comune contro il terrorismo, l'impegno che ci vede molto attivi, in particolare in Iraq e in Afghanistan. Credo che saremo decisivi nel lavoro di stabilizzazione dopo la sconfitta militare che ci auguriamo di Daesh. Ecco, avete ascoltato Gentiloni, anche lui molto soddisfatto di questo suo incontro alla Casa Bianca. In chiusura va su Daesh e c'è stata poi una domanda sulla Libia. Una domanda sulla Libia alla quale Gentiloni ha risposto dicendo: beh, insomma, abbiamo avuto delle azioni anche con gli americani per cercare di contenere l'azione dei terroristi nel Golfo della Sirte. Dopodiché però, dice, a questo punto dobbiamo dare spazio alla politica, dobbiamo rafforzare il governo libico, non possiamo neanche immaginare una spaccatura della Libia. Quindi un riferimento alla politica, alla diplomazia. Ma sentiamo, quando poi è toccato a Trump parlare di Libia, che cosa ha detto. Do you not see a role in Libya? I think the United States has right now enough roles. So I do not see that. I do see a role in getting rid of ISIS. Ecco, Trump, come sentite, taglia corto. Dice: non vedo un ruolo degli Stati Uniti in Libia. Credo che gli Stati Uniti abbiano già abbastanza fronti aperti. Dunque, non possiamo immaginare di aprirne degli altri. Ecco, questa risposta ha creato, come dire, un po' di confusione, un po' di reazione. Perché? Beh, perché ci si aspettava che in risposta a quel che diceva Gentiloni, forse Trump avrebbe usato delle parole, diciamo, più diplomatiche, tra virgolette. Ma sappiamo che Trump non è diplomatico. E dunque qui lui voleva dire una cosa molto specifica. Anzi, due cose molto specifiche. La prima è che lui aveva capito che gli si chiedeva se gli Stati Uniti avrebbero mandato dei soldati in Libia. Dice: no, assolutamente no. Ma è la seconda cosa, secondo me, la più interessante, e cioè che la posizione di leadership di fatto è stata assegnata ieri in qualche modo all'Italia. Cioè Donald Trump dice: ma insomma, della Libia siete voi gli esperti, occupatevene voi e noi vi appoggeremo in tutti i modi possibili, soprattutto, e poi questo è stato molto chiaro, facendo azioni militari se necessario per sconfiggere il terrorismo dell'ISIS. Ecco, devo dire che se c'è un messaggio centrale in arrivo dall'incontro di ieri alla Casa Bianca fra Donald Trump e Gentiloni, è che solo una dimostrazione di forza può favorire la diplomazia, soprattutto quando dall'altra parte del tavolo c'è la Russia di Vladimir Putin, perché questo era il messaggio indiretto sull'Europa. L'intesa fra Italia e Stati Uniti su questo punto è chiarissimo: l'unità contro i soprusi, contro l'annessione dell'Ucraina, contro gli eccessi di forza che abbiamo visto in Siria, deve essere riaffermata, questo ci ha detto Gentiloni, anche nel contesto del G7 di Taormina, con un caveat. Su questo Gentiloni è stato molto chiaro, alle prove di forza occorre poi dar seguito con un'apertura al dialogo, alla politica. Ieri mi sono accorto che questa cosa non riguarda ormai solo l'amministrazione Trump. La preoccupazione per le interferenze russe nei processi politici e elettorali europei è ormai l'argomento più discusso nella capitale americana. Ma adesso, in vista delle elezioni francesi di domenica, c'è ancora più preoccupazione per tutti. Vi cito John Hamre, che è il capo del Center for Strategic and International Studies, uno dei più importanti think tank di politica estera nella capitale. Ecco, per Hamre e dunque per il CSIS, una vittoria di Marine Le Pen in Francia, un rafforzamento dei movimenti populisti e nazionalisti che vogliono la spaccatura dell'Europa, avrebbe conseguenze catastrofiche sul piano strategico per gli Stati Uniti d'America. Well, first of all, I love the question you asked the Prime Minister. I look forward to his answer. Because I'm going to be asking him that same question verse. Ecco, infine un tema su cui poteva esserci un po' di spaccatura, poteva esserci spaccatura anche sul commercio, però poi Donald Trump ha detto: ma in fondo con l'Italia certo c'è un avanzo, però noi abbiamo situazioni molto più preoccupanti con altri paesi, dunque anche sul fronte commerciale non è stato aggressivo Trump come è stato invece per esempio con la Germania. E quindi quando si è trattato di parlare di NATO, Donald Trump, l'avete sentito, dice: ma sono proprio molto curioso di sentire qual è la risposta che darà il Presidente del Consiglio italiano a questa domanda, perché noi vogliamo che i paesi membri facciano il loro dovere e paghino quanto si sono impegnati a fare. Ecco, Gentiloni ha risposto che naturalmente l'Italia ha sottoscritto l'impegno di un aumento al 2% del PIL per le spese militari, ha rassicurato Trump dicendo che l'Italia manterrà i suoi impegni, ma ha anche detto che ci sono dei problemi di disavanzo pubblico, ha anche detto che ci vorrà un po' più di tempo. Ecco, qui secondo me Gentiloni avrebbe potuto essere molto più aperto, molto più aggressivo, perché nel nostro interesse procedere con delle spese aggiuntive. È vero che abbiamo problemi di bilancio, ma se le spese militari vengono sottratte al nostro bilancio e diventano delle spese per investimenti, allora il problema è risolto, e questo credo che sia uno dei temi forti su cui il nostro paese dovrebbe lavorare, perché il rilancio della crescita economica è nell'interesse degli Stati Uniti, è nell'interesse dell'Italia, e dunque occorre trovare un percorso perché questo accada. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive momenti di tensione ma apre come sempre una nuova frontiera inesplorata. Potete continuare a trovarli su mediamedia4.com, seguitemi su Twitter, @MarioPlatero, ed eccoci alla canzone del giorno. Non possiamo che dedicarla ai rapporti Stati Uniti-Italia. La visita ieri direi è andata molto bene, Gentiloni può essere soddisfatto, e quindi dei Queen, You're My Best Friend. Da Washington è tutto. Mario Platero vi saluta, vi dà appuntamento a lunedì. Goodbye and get going!